piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. L'hanno trovato in un evidente stato di shock dopo una lunga caccia all'uomo. Massimiliano Mallus, 52 anni, di Quartus Antelena, provincia di Cagliari, è il principale indiziato per la morte di sua sorella. L'omicidio è avvenuto sabato notte nella villa di famiglia, un delitto avvenuto dopo una violenta lite, forse legato all'eredità di famiglia. Nessuno qui si sarebbe accorto che in questo palazzo della centralissima Piazza Mattei a Formia, in provincia di Latina, l'ennesimo litigio tra familiari si era trasformato in tragedia. Pasquale Forcina, 64 anni, ha ucciso con una pistola legalmente detenuta la cugina 67enne Fausta Forcina e suo marito Giuseppe Giunta 70enne. Poi con la stessa arma si è suicidato. Dalle indagini è emerso che le discussioni tra cugini andavano avanti da anni per la gestione dell'edificio ereditato dai rispettivi genitori. Questo era un blob di tragedie familiari. Causa comunque interessi economici, divisioni, eredità, qualcosa da gestire assieme tra fratelli, tra cugini, tra parenti, da cui nasce sempre quello che è uno dei più virulenti moti di sterminio nel genere umano. Sono convinto che i veleni che sedimentano nelle famiglie hanno modo di mostrare la loro funesta efficacia proprio quando occorre cominciare a spartirsi qualcosa. Rimangono sopiti, si abbozza per tutta una vita, qualcuno sopporta, qualcuno fa esercizio di vituperio nei confronti di familiari più deboli, ma il momento della divisione è il momento fatale. E da lì comincia, esplode, si ha il vero senso di quello che è la convivenza forzata di esseri umani che sono legati soltanto da un involontario, almeno da parte loro, vincolo di sangue, cioè derivano lo stesso ceppo genetico di genitori o di parenti. Questo è un tema che mi tocca molto da vicino, lo sento profondamente, ne ho esperienza. So cosa accade nelle famiglie quando improvvisamente viene red rationem. C'è una notizia di cronaca, oltre a quelle che sono state raccolte da Fabrizio Intonti, avete sentito sintetizzate, che mi ha molto colpito oggi. Una regola deontologica di ogni giornalista è parlare il meno possibile dei suicidi, perché si crea un effetto di imitazione, ma in questo caso non mi voglio fermare all'evento di cronaca di Carmagnola, dove tre sorelle si sono suicidate proprio per qualcosa che ha a che fare comunque con il tema che oggi voglio affrontare con i miei ascoltatori, qualcosa che nasce in un dissidio familiare per interessi economici. Triste, perché erano donne mature, donne che hanno già tentato il suicidio, quindi la loro è una volontà ben precisa, e il motivo comunque, almeno dalle prime ricostruzioni, è proprio quello di una faida eterna che durava da anni fra loro, fra fratelli, fra avvocati, sempre basata sul fatto che un genitore alla fine non è mai chiaro, non lascia mai le cose chiare, e se anche le lascia chiare poi comunque subentrano tante circostanze. Le prime due sorelle, una di 54, una di 67 anni, sono impiccate in un capannone. La terza sorella le ha trovate impiccate, di 68 anni, è tornata a casa, ha scritto in una lettera tutti i motivi dettagliati per cui stava accadendo quell'episodio, si è messa anche lei una corda al collo, si è buttata dal balcone. Tre sorelle sono impiccate. Qual è nella vostra vita, nella storia della vostra stirpe, nei derivati familiari che avete acquisito quando vi siete sposati, vi siete accompagnati, avete passato dei periodi della vita assieme ad altre persone, che vi danno prova e testimonianza del fatto che i veleni peggiori si respirano proprio nelle famiglie quando inizia il problema della spartizione dei beni materiali? La famiglia dovrebbe essere un insieme basato sull'affetto, sull'amore, sulla solidarietà, sul passaggio del testimone, dell'esperienza generazionale, sulla cultura dei figli, sull'amore reciproco che lega le persone. In realtà è il più grande verminaio quando entrano in gioco i beni economici, i beni materiali. Quindi in 30 secondi voglio che voi mi diciate una vostra esperienza di vita che in qualche maniera conferma o perlomeno dà altri elementi di valutazione al fatto che In famiglia può scoppiare un putiferio, qualcosa di funesto, se soltanto si inizia a pensare a spartirsi i soldi. 800240024, sta a voi. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Posso dirvi che nella vita ne ho viste di cose, senza entrare nell'aspetto individuale e personale. Appena muore qualcuno, parte la corte dei parenti e delle parentesse, innanzitutto a spogliare le case, a vuotare i canterani, a capire cosa c'è nei cassetti, andare nelle madie, nei posti più nascosti, corre a implorare impiegati di banca compiacenti, amici, per dare un'occhiata nei conti, capire cosa si può sgraffignare. E si comincia le liti su nulla, sulla camicia da notte della bisnonna, sul pitale del nonno, su quell'orologino tanto bello che mi era stato promesso. Devo dire che in questo Monicelli fece un affresco stupendo in Parenti serpenti, in cui per le feste di Natale a Sulmona si vedono delle famiglie alla fine arriveranno a un esito tragico per sgraffignare quattro cose a due poveri genitori. Per quanto riguarda la casa vedremo il da farsi, ma la roba che sta dentro sarebbe bello. Perché dentro ci sono delle cose giù, mica male. Il televisore è nuovo. E la lavatrice che gli abbiamo regalato noi l'anno scorso? È nuova. Poi c'è quel programma per i capi del... Allora scusate, ma vorrei mettere le mani avanti, visto che siamo in argomento, perché in quella casa c'è una cosa che a me mi fa proprio morire. Il comò. Quello che sta nel corridoio? Sì. Quello che la tirò la Lisetta? Dio, quanto mi dispiace, Gioia. No, il fatto è che quello me lo regalò proprio a me, non a Lisetta, prima che espirasse. Paradossale, poi li faranno saltare in aria con le bombole del gas, così taglieranno la testa al toro, poi faranno dei quattro stracci di questi poveri due vecchi scempio. Guardate che paradossale, oggetti che in realtà non hanno alcun valore venale, diventano indispensabili nelle spartizioni. Ho visto litigare per degli stracci per asciugare i panni soltanto perché erano cifrati o perlomeno perché l'aveva messi con una particolare cura la nonna in quel particolare contenitore. Ho visto combattere per famiglie, medaglie, sciabole del nonno, ricordi, vestito da sposa della trisnonna, cose che in realtà fanno la gioia dei rigattieri, non valgono niente. Vedo che nella città in cui vivo, Roma, è piena di mercatini, di roba tirata fuori dalle bare, che non ha nessun valore, che ogni anno viene riproposta in tutte le feste comandate. Arrivano queste gentildonne, sciorinano le valigie di quello che hanno preso in migliaia e migliaia di contenziosi con i loro parenti, ma nessuno lo vuole più perché nessuno ha più voglia di investire nel vecchio. Poi quel vecchio, quell'ammuffito, diventa di grande valore quando è un patrimonio di famiglia di cui ci si sente usurpati. 800240024, in 30 secondi, Enzo, inizia lei. Pronto? Pronto, allora... Vai, storia, al via, al via, tante. Al via, vai. A storia come tante, mio padre con una sorella soprattutto ha litigato ormai, litiga da 20 anni, non si sono parlati da 10, c'è stato un riavvicinamento, poi un allontanamento, dopo la morte di mia nonna, basta, chiusura completa. Il mio sogno è... beffare tutti, mio padre, quella stronza di mia zia, eccetera, e riunire i cugini in onore della nonna e goderci tutti insieme la casa vacanze in Meridione, a cui lei era tanto legata e che nel suo immaginario voleva lasciare a noi cugini. Questo è un bel proposito, ma come fai? Esistono degli strumenti? Rischiosissimo, rischio di fare una frittata ancora più grossa, anche in mio padre. Sì, ma tu a un certo punto devi fare una decisione. O mandi a cagare tutti e decidi di portare avanti il tuo piano, che in sé ha qualcosa di rivoluzionario, di avanguardistico, capito? E ti godi con i cugini, visto che siete amici, quello che vi potete prendere. Però guarda che le battaglie legali sono lunghe e costose, eh? Ma più che altro amici, anche lì, negli ultimi anni qualche cugino ha dato prova di non essere così fidato. Proprio quelli a cui non bisognerebbe dare le chiavi, perché i genitori non hanno contribuito con il restauro della casa... Io gliele vorrei dare, e se poi me la mettono nel culo? Vabbè, quello è un'incognita che nella vita dobbiamo sempre porsi, come diciamo piano B, che ci potrebbe essere questo problema. Però ti dico, io ho capito il senso. Tu vorresti fare un gesto per chiudere quella che è una tradizione familiare fatta di litigi, di meschinità, di piccole cose. Io ho fatto ritinteggiare la tavernetta e quindi ho diritto alla casa. Sì, ma mio nonno una volta accomodò quel lavandino. Diciamo è una discesa nell'inferno delle meschinerie, però ti auguro di portare a fondo il tuo piano sovversivo. Alessandro, sei pronto? Sì, carissimo, buongiorno. Pronto, vai, 30 secondi. E sono in fase di litigio con mia sorella, siamo 5 fratelli, lui è una donna, adesso siamo rimasti in lei. Lei è molto molto attaccata al denaro, è tutto suo. L'unica arma che io trovo adesso è amarla il più possibile e far sì che decida lei. Io non voglio più litigare, vorrei andarmene sapendo che ho riuscito nei rapporti, e per i soldi non posso farci niente. Io non voglio litigare per quello, anche se naturalmente ne va della mia sopravvivenza, delle mie figlie. Allora Alessandro, subentra un fatto importante, tu l'hai lambito. Tu potresti fare anche questo gesto nobile di salvarti la vita, nel senso avvelenarsi il fegato, il sangue, distruggersi per quattro stracci, non so, è un'entità importante questa eredità che vi contendete, oppure è una cosa diciamo soltanto simbolica? No, insomma, si sta parlando di qualche, sono un paio di milioni di euro. Apposta, non sono proprio noccioline. Allora, no, tu hai un dovere verso i tuoi figli. I tuoi figli hanno diritto comunque di avere parte di quello che gli spetta per linea dinastica, diciamola così, capito? Quindi tu non puoi rinunciare a un bene che spetta ai tuoi figli, questo non potrei mai farlo, ti direbbe anche un avvocato, non è puoi fare una rinuncia. Quindi no. L'atto d'amore verso tua sorella, se tua sorella è radicalmente una stronza, tu puoi amarla quanto vuoi, continuare a essere quello che è, quello di renderti, anzi. Mi dispiace che sia mia sorella, purtroppo. Ma che vuol dire? Mica li scegliamo noi, fratelli. Ne può venire uno buono, uno stronzo, uno buono, uno stronzo, uno buono, uno stronzo, uno spera essere sempre dalla parte di quello buono, ma è così, succede, capito? Quindi, ahimè, l'unica alternativa è tentare un negoziato all'inizio in termini calmi, sempre con dei testimoni, con dei mediatori che riescano a farvi superare i momenti di estrema combattività, però non puoi calarti le brache, perché i tuoi figli te lo rinfaccerebbero per tutta la vita. Quando stiamo parlando di noccioline, dici papà, oggi una casa non me la comprerò mai lavorando, non mi puoi far rinunciare, avere l'unica chance nella vita, averci un tetto sulla testa e farmi una famiglia. Quindi fatti un po' di training zen in arti marziali di gestione di eredità e datti da fare finché ancora sei lucido. Nicola, buongiorno, sei pronto? Sì, sono pronto. Vai Nicola, 30 secondi. Ok, io sono della provincia di Benevento, però chiamo da Roma. Volevo dire la storia di mia moglie. Mia moglie ha due sorelle e due fratelli. Ebbene, muore mia suocera, allora gli tocca una parte di mia suocera. Poi le sorelle che hanno fatto? Hanno plagiato mio suocero e sono andate al notaio e si sono fatte intestare tutto a loro. Cioè, e queste ingrate continuavano a venire a casa qui a Roma, a Benevento, in effetti così come se fosse niente. Però io avevo capito qualcosa che avevano fatto. Allora che ho fatto? Ho impiegato 2 anni e ho scoperto che in effetti loro erano stati dal notaio dove avevano fatto quest'atto. Adesso, beh, Nicola, i 30 secondi sono finiti, se poi parli tutto nel dettaglio. Quindi hai scoperto un'azione subdola. Mendace dei tuoi confronti da parte delle sorelle? Chi sono stati? Chi sono Di mia moglie da parte delle sorelle, non mia, cioè io. Sarebbero le tue cognate. Le mie cognate, sì. Che cioè, dopo che avevano fatto questo, con l'ingratitudine, venivano ancora a casa mia a mangiare, a bere. Guarda, io ti posso, recentemente ho saputo la storia di sorelle che sono andate a prendersi al bancomat i soldi del fratello appena morto, di modo che risulta sull'estratto conto della banca che questo signore da morto aveva ritirato dei soldi al bancomat. Una cosa imbarazzante, per non farli prendere alla moglie, adesso non mi ricordo bene. Quindi succede di tutto. Questo per capire, è importante raccontare la storia. Tu adesso avrai un grosso problema, perché dovrai difendere tua moglie dalle sue sorelle, che sembra qualcosa totalmente contro le cosiddette leggi di natura che tutti impugnano. Certo. Ti rendi conto che succede? Quindi che puoi fare? Allora, che ho fatto io? E ho indicato 2 anni e ho scoperto dove avevano fatto quest'atto. Sono andato dal notaio e, diciamo, mi sono fatto dare l'atto e l'ho fatto vedere a mia moglie, capito? Hai dato la prova del tradimento di sangue a tua moglie? Ecco, perché mia moglie diceva che io ero esagerato, che io... Ce l'hai con le mie sorelle, sono tanto bravo. E quindi? Infatti. Che è successo? E quindi che ho fatto? Dico, senti, questo è l'atto, queste sono le tue sorelle e tuo padre. La pistola fumante gli hai fatto vedere. Sì, e quindi, e lei che ha fatto? Io, quell'atto non valeva niente perché lei aveva diritto alla legittima, cioè noi lo potevamo impugnare, però io sono stato superiore, ho detto a mia moglie, dico, senti, ora se c'è le palle vai a casa di tuo padre. Una moglie con le palle è da augurarsi a chiunque, certo. Infatti, dico, vai a casa di tuo padre, porti una lattina di benzina, una bottiglia, metti, bruci tutto e te ne esci. No, questa è istigazione, ecco. Istigazione allo sterminio familiare, sì, non si può fare. No, senza loro dentro. Ah, senza, dai fuoco solo la casa, no, al padre. E che ha fatto allora, tua moglie? Oppure, dico, da oggi non li guardiamo più. Se loro si devono chiedere perché... Tanto lo sanno perché non li guardiamo sì, ma più. Ma quanto era in sostanza? Quanto ti sarebbe entrato se l'eredità fosse stata? La casa, i terreni, cioè un bel patrimonio cospicuo. Cioè, insomma, diciamo in dollaroni, quanto? In dollaroni è sempre, cioè, considerare 5 persone, 15.000 euro, mettiamo, va. Vabbè, per 15.000 euro sono una bella cifra, ce l'avessi adesso. Salterei e camminerei sulle mani. Però possiedi la verità, ma non vale la pena rovinarti la famiglia. Manda a cagare le sorelle e stattene con tua moglie, visto che c'è anche le palle, così te la godi in tutti i sensi. Vabbè, dai, finito, donare la linea. Mi piace, bella storia, ciao. Melog. Appartamenti a Padova, la casa di famiglia Cittadella, terreni agricoli e un consistente deposito bancario. Fatti 2 conti, un patrimonio da 3 milioni di euro. Tanto è riuscita a farsi intestare una 52enne badante moldava da un docente universitario padovano e dalla moglie, coppia facoltosa, scomparsa un anno fa. Nel mirino della procura 2 testamenti olografi, sospetti, fatti firmare 2 anziani mentre erano ricoverati in casa di riposo. Lui con l'Alzheimer, lei con una grave forma di demenza senile. Testamenti che a favore dell'erede unica moldava cancellavano le precedenti disposizioni della coppia, senza eredi diretti, di lasciti a istituti e all'opera della provvidenza. Devo di dire che sto pensando in questo momento, forse la prossima settimana faremo un referendum. Fare un referendum che noi volontariamente, quando raggiungiamo una certa età, veniamo espropriati dei nostri beni. Vengono distribuiti in maniera equa, secondo un giudizio dato da dei periti super partes, a chi ha diritto di averli, e noi ci viene dato il minimo indispensabile per la sussistenza. Si fanno dei bei posti, io ci starei. Pensate ai miei figli, io non voglio niente per me, perché pensare che un domani, che ne so, questo maglioncino di cotone blu che ho addosso, queste povere scarpettine scalcagnate, questi pantalonucci stinti che mi porto addosso da anni, diventeranno oggetto di contesa fra Filippo e Tommy, non ci posso proprio pensare. Abbiano tutto loro, io voglio vivere tranquillo. Se uno facesse collettivamente questo ragionamento, oggi la trasmissione non avrebbe senso. Invece, ahimè, ha senso. Mia mamma ha accudito mia nonna che ha avuto una malattia autoimmune, l'ha tediata per 20 anni, i nonni però non hanno fatto testamento, quando sono morti avevano 4 figli, la mamma che l'ha accuditi per tutta la vita naturalmente oggi dovrà fare a coltellate con gli altri figli che hanno fatto come la cicala e la formica dalla parte delle cicale. Romano, buongiorno. Buongiorno. Sei pronto? 30 secondi, la tua tragedia familiare, vai. Allora, nel 1994 mio fratello Franco ha fatto un viaggio in America. In America è stato ipnotizzato per la strada e tutto questo è stato ben noto al presidente di una banca, quella banca, va bene, nel 2001 ha fatto scoppiare una tragedia, la morte di mia madre, è fatta fare dalla banca. Va bene, è una tragedia familiare. Pronto? Sì, sì, no, il tempo è finito, poi devi spiegarmi che alla fine come va a finire questa storia. Le tragedie familiari con cui quella banca si è appropriata di un debito industriale internazionale del valore di circa 2.000 miliardi di euro. E questa era roba tua, se no era roba tua questa roba. Sì, hanno fatto questo. No, fammi capire, Romano, se no ti beccavi 2.000 miliardi di euro, te. Se non c'era allora, questo un momento o sì o no? Io io ho inventato un sistema. Sì. Va bene. Vabbè, Romano, sì, ho capito. Tu vuoi propagandare, io voglio capire. Hai avuto un problema in famiglia dovuta da delle crisi fra parenti e tutto nasce da questo? Tutto nasce da questo, nasce con questo, ossia quello è stato lo strumento perché quella banca si appropriasse del mio credito. Il tuo credito quanto corrispondeva al tuo credito? Il mio credito, non ho capito. Io con quella banca non avevo nessun rapporto. Romano, sono limitato, non ho capito una mazza. Scusa, non c'ho tempo. Ciao, Marco. Cose complicate per me, anch'io ho dei limiti. Marco. Sì, Nicoletti. Allora, vediamo se la tua è più semplice. 2000 no, molto, miliardi. Molto, allora, molto più semplice. Vai, 30 molto secondi. Meno tragica. 30 secondi. Praticamente, quando noi avevamo un cimelio di famiglia che era un vecchio anello d'oro che veniva tramandato di generazione in generazione. Mia nonna, quando morì mio nonno, che aveva detto che quell'anello sarebbe andato a me, nella realtà ha dato al figlio, cioè a mio zio. E questo mio zio però, questo anello, di cui io ero legato più per motivi storici che per motivi di valore, era un anello sì, d'oro ma senza un grandissimo valore, in realtà mio zio decise di fonderlo, di darlo pure, fare un anello poi per la moglie, e io rimasi senza l'anello di famiglia. Ma quello che mi dispiace di più è proprio la perdita del concetto storico, ecco, cioè il fatto che questo era da due secoli che veniva passato da generazione in generazione e invece purtroppo... Però, scusa Marco, fammi capire... Tuo zio fonde un anellino che ha due secoli di storia, che ha un valore soprattutto, diciamo, storico. Di oro, quanto sarà mai stato d'oro? 2 grammi d'oro? 3 grammi d'oro? No, vabbè, era forse più grande, sarà stato 10 grammi d'oro. Sì, cioè ma per quanto sia, diamante, ma non valeva l'oro fuso rispetto al valore della fattura dell'epoca, no? No, assolutamente. E quindi è un gesto di sfregio puro, capito? Puro sfregio verso sì, di te. Ecco, il termine giusto mi piace, Nicoletti, è proprio questo, cioè di sfregio alla storicità dell'oggetto più che dal valore poi. Cioè l'ha voluto reale, fondere per dire non c'è più, lo annullo, scusami, non c'è più, l'ho fuso. Per fare un anello alla moglie. Fatto, pensa... Potrebbe essere andata così, non ho mai parlato con mio zio che è ancora vivente oggi. Sì, però pensa, scusa Marco, pensa che gesto di poracciaggine assurda, di fare un regalo alla moglie e comprali un anello come piace a lei, vai a un negozio. No, fondi l'oro dell'anello della morta, capito? E gli rifai un anellino con l'oro fuso di quello lì. È una cosa da poveracci proprio, di testa dico. Non lo so, purtroppo è così, è andata in questo modo e nonostante io abbia 57 anni, quindi sono passati quasi 40 anni, ancora me lo ricordo, il che vuol dire ma che... Come comunicate la cosa, tu sei andata zio quel bell'anello che mi piacerebbe tanto, c'ha un valore storico, esatto, è andato in un modo diverso, quando gli ho detto ma quell'anello con i due serpenti incrociati di famiglia che fine ha fatto, fa guarda l'ho fatto fondere, c'è la tua zia alla mano adesso, ma è completamente diverso. Ma se fosse una bugia che lui te l'ha detto in realtà c'era, perché un anello con un lavoro di orificeria così raffinato con due serpenti incrociati così quasi un caduceo, ha un valore ermetico quell'anello, probabilmente aveva un significato oltre quello estetico che tu gli davi. Può essere che lui se lo sia tenuto in realtà, che è il gioiello del potere della famiglia? No, non credo, conoscendo lo zio nella realtà. Beh, l'ha proprio fatto fondere, cioè non era una balla, mi permetta il termine, ma è stata balla. Proprio la realtà. Ecco, cioè, oltre a essere diciamo un pitocco e un poveraccio di testa, non aveva nemmeno un senso estetico, perché allora è meglio tenerselo. Cioè, non ho mai avuto una grande, come si può dire, ricordo della storicità. Io forse sono un... E tuo zio sta bene in salute? Sì, adesso già oltre 90 anni, insomma. Però devo dire, di solito questi gesti portano una sfiga tremenda. Lui gli ha allungato la vita. No, ma quindi. Non credo, ma le dico, non sono neanche superstizioso. No, nemmeno io, però lo dico in generale. Fondere l'anello con serpente la nonna, io non l'avrei mai fatto, ma piuttosto mi vendevo la camicia, capito? La nonna, la bisnonna, da secoli si trasmettono un anello con dei serpenti incrociati, che secondo me è l'anello del potere delle donne della famiglia, con quello gestivano tutto il mondo. Li fonde lui e sopravvive, quindi come se fosse venduto l'anima al diavolo. Vivrà tanti anni, ma non sono così sicuro. Tragico. Lo dico per farti contento. È una battuta che ha altrettanto di quelle che hanno detto gli ascoltatori. Guarda, lui quando arriverà nel momento estremo della sua vita, come il dottor Faust, si spalancheranno le porte della sua cameretta, verrà fuori il diavolo col forcone e dirà: adesso è ora che vengo a prendere il prezzo e l'anima che mi hai venduto fondendo l'anello coi serpenti. Sicuramente andrà così. Marco. Ma no, Marco ha parlato. Aldo. Sì, buongiorno Aldo. Nicoletti, buongiorno. Aldo, pronto, 30 secondi, vai. Allora, io ho raccontato la storia di uno zio, in realtà un prozio, il quale è rimasto vedovo senza figli e ha due badanti ucraine molto graziose, è giunta voce che stesse dissipando i soldi famiglia, i nipoti sono andati dallo zio a chiedergli conto, e lo zio gli ha detto: cari ragazzi, sono vedovo 15 anni, vi siete mai fatti vedere, andate quel paese, i soldi me li spendo come voglio, quel che resta è vostro, fino ad allora mi diverto con queste due mie amiche. Oh, finalmente una storia a lieto fine. Allora, i nipoti non hanno nessuna legittima diritto a nessuna legittima testamentaria, quindi lo zio non è che ha dei figli. I figli capirei, dicono: papà, per favore, non ti sputtanare tutti i soldi in badanti, lasciaci qualcosina a noi. Ma i nipoti che vogliono dallo zio? Lo zio giustamente. Siccome lo zio, diciamo, ha un patrimonio cospicuo, io permetto che io non ho infatti nessun titolo, perché sono un prozio, sono di fuori. Io, se mi portarono con loro. Ti hanno portato nel momento delle. Sì, fa racconto la storia. Io mi occupo di questioni finanziarie. Quindi ha detto: vieni da noi. E lo zio, figura, era lì. Poi, avendo molti soldi, essendo anziano, ha capito che con una donna sola non ce la faceva a spenderli tutti, se ne prese due insieme. Certo, quindi, ma devo dire che lo zio ha dimostrato un certo buon gusto. Perché io con le e diciamo, questo terzetto. Questo terzetto si animava comunque costantemente a casa dello zio? No, altro che a casa dello zio, vacanze, spa, soggiorni nei posti termali, accompagnato dalle due badanti. No, al momento del chiarimento erano presenti le signore? Al momento del chiarimento non erano presenti, io però le ho viste perché abitando... Valeva, diciamo, in una bieca e maschilista valutazione di ciò che non bisognerebbe mai valutare in termini concreti e materiali, ma guardare alla bellezza interiore, valeva la pena secondo te? Sì, sì, no, l'eredità la valevano sicuramente, una parte almeno, no, devo dire che non so preciso che t'avessero, però diciamo potevano essere sui 25 anni. E tuo zio ne aveva? Ricordami tuo zio quanti ne aveva? Mio zio al momento del fatto aveva 70 anni. Quindi 70 anni, due 25 anni, tutto sommato, secondo la regola numerica, una cinquantenne se la poteva anche permettere, nessuno avrebbe detto nulla. Certo, ma tanto vale due di 25 fanno una di 50, l'ha pensato questo? Sì, sì, no, zio... cioè andammo, ci fu questo chiarimento. E lo zio che disse? Lo zio che disse? Fece il gesto dell'ombrello. Lo zio ascoltò, poi io ero lì, diciamo, consulente finanziario, per così dire. Lo zio sapeva benissimo che a me in ogni caso non sarebbe toccato una lira. E quindi lo zio disse ai nipoti: ragazzi, cari nipoti, sono vedovo da 15 anni e già tanto se mi telefonate a Natale per gli auguri. Che cacchio volete? I nipoti sono tornati scornatissimi a casa con le mogli che aspettavano già pronte lì col bonifico. Non dico dopo cosa è successo. Tragedie familiari. Lasciati dalle mogli. Io mi sarei aspettato di trovare le due ucraine nel bagagliaio di una macchina in qualche parcheggio abbandonato. Sono rovinate le famiglie. Perché loro, tutta l'aspettativa delle mogli era su questo zio che moriva. Beh, lo zio, sì, diciamo, ora non stiamo parlando di un plurimilionario, ho visto i conti, però diciamo che un bel po' di soldi l'aveva, non è che stesse dilapidando ogni centesimo. Facciamo, Aldo, siccome è il tuo mestiere, una valutazione per capire quanto si beccava ogni ucraina a testa, più o meno. Secondo me le ucraine a testa, tra benefit, vacanze e tutto, 3 o 4 mila euro al mese se li portavano a casa, li spedivano in Ucraina. Per una, a testa. Per una, sì sì. Quindi diciamo, lui c'aveva un ménage di 8 mila euro al mese? Sì. E quanto durava, secondo te? Gli bastava fino alla fine dei suoi giorni? Sì, sì, beh, sì, lo zio era... Quindi aveva un'azienda grossa. Diciamo 4-5 milioni di euro di valutazione. Sì, sì, sì, ce li aveva. Io ho visto solo... Cioè, lo zio non ha fatto vedere le carte a nessuno, era lucido. Però è quello. Per quelli che si sarà inquattati, mica c'era tutti le carte. Sì, se ne sarà inquattata la metà, figuriamoci. Quindi no, diciamo che ogni giorno le mogli cattive, dei fratelli, dei cugini cattivi, pensavano che oggi partirà altri 700.000 euro. Oggi, certo. Ogni anno 1,5 milioni di euro andava comunque in lussuria e sì, passava... centinaia di migliaia di euro. Lo zio preferirà, se devo morire, preferisco morire fra le cosce di queste due belle donne, certo, che morirmene in un ospedale che mi prendono a calci nel sedere. Oggi una storia tristissima a Palermo. Hanno trovato un anziano che camminava scalzo e nudo per strada, era fuggito da un lager, da un ospizio abusivo, dove lo pigliavano e lo menavano. Grazie a lui hanno scoperto altri vecchietti buttati lì, lasciati lì dalle famiglie. Ma non è meglio che se li sputtanino come vogliono, meglio così. Sì. Ci fermiamo un istante, grazie, tra poco. Melog 0024, ne stiamo scoprendo delle belle, vedete, tutta una casistica in cui lentamente si demolisce questa visione irenica, intangibile, mistica, fantasiosa della famiglia come luogo della compattezza, come nucleo essenziale su cui si costruisce tutta la società. La società è marcia, perché è marcio il concetto comunque di famiglia intesa come qualcosa di indissolubile, di intoccabile, benedetta da tutte le forze possibili del cielo. La famiglia è questa, sono esseri umani, si trovano insieme, perché? Perché sono nati dallo stesso uomo e della stessa donna, bene o male, capito? Oppure si trovano a vivere assieme, sono stati accomunati in uno stato civile. Ma noi non possiamo essere costretti a stare con altre persone. È chiaro che prevale il nostro senso di salvezza dei nostri interessi. A un certo punto il fratello, il cognato, il nipote, il figlio stesso lo vedi come un estraneo, qualcuno che attenta a ciò che a te dà sicurezza. E cosa ci dà più sicurezza che i nostri beni? Niente. William, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ma allora, io volevo raccontare... Aspetta, c'è 30 secondi, sì. Come tutti, William. Faccio solo una nota. Sono stato molte volte criticato del fatto, chiedo sempre, le donne non chiamano, che è un gesto contrario, diciamo, alla libertà di espressione. Però, siccome il pubblico è equamente distribuito fra uomini e donne, vorrei sapere anche un pochino, mi serve, il punto di vista femminile su questo. Certo. Perché in queste liti sembra sempre che sono gli uomini che devono incrociare le spade e le donne stanno in seconda fila a fomentare o a supportare. Fatemi sapere, signore, come le vivete anche voi queste storie. William, pronto? 30 secondi? Vai. Beh, io volevo raccontare una storia di una semplice famiglia. La mia famiglia è una famiglia nobile. Morta la nonna, ha lasciato in eredità... qualche casa, così, che è stata ben suddivisa fra i quattro fratelli, mentre l'oro, essendo cospicuo, è sparito, ed era un parecchio. E gli altri tre fratelli, di cui una femmina, mia mamma, e gli altri due maschi, non hanno mai avuto il coraggio, non ce l'hanno tuttora, di andare da quell'altro fratello a dirgli: ma perché non lo dividiamo? Per andare d'accordo. Tutti tacciono. Allora, capiamo un po', William. L'oro dei Nibelunghi della tua nobile famiglia in cosa consisteva? Lingotti, dobloni? No, consisteva in assolutamente, consisteva in anelli, collane. Ma avete un inventario di questo oro? Ma no, non c'è un inventario, ci sono dei ricordi frammentati dei fratelli, cioè, però era consistente, essendo mia nonna. Ma cos'era? Un piccolo forziere, un sacchetto? Cosa? Ma sinceramente questo non te lo so dire, so che c'era parecchie cose, insomma, parecchi anelli. Diciamo un bel cofanetto d'oro. Un bel sacchettino, loro lo definiscono i fratelli. Ah, se ne parla. Un bel pieno, loro ne parlano. Allora, in famiglia si parla del sacchettino con l'oro di famiglia. Sì, però nessuno ha il coraggio di andare da questo fratello e di dire: ma perché? A parte che aspettava alla mia mamma, perché di successione va alla figlia femmina. E poi l'oro è difficile, se non è catalogato e classificato, nessuno sa che c'è. Dice: sì, boh, l'anello. Ma tutti sanno che c'era. E per rispetto, insomma, si è sempre usato così, no? Nel tempo. Ma poi scusa, se la tua è una famiglia di sangue blu, ci sarà una tradizione nel tramandare gli ori di famiglia, penso, no? Ma certo che c'è una tradizione. E certo, qual è? E cosa dice la tradizione? Tutto va alla figlia femmina. Se l'oro si sposa della mamma va alla figlia femmina. No, va alla figlia femmina. Infatti mia nonna, ancora prima di morire, qualcosa gli aveva già dato a mia mamma. Ma perché poi era tutto suo, perché va alla figlia femmina, la primogenita femmina di valoro. Il maggiorescato non conta in questo caso, va alla figlia femmina perché va in dote, che è la dote della femmina. Ma no, ma va proprio per tradizione alla figlia femmina l'oro, mentre le altre cose si devono dividere, l'oro va alla figlia femmina. Su questo non c'è... Ma allora perché non andate da sto tipo e gli dite: scusa, dacci l'oro? Perché sia mia madre che gli altri due fratelli, perché si vogliono bene, che secondo me poi... Ma è un'ipocrisia, che si vogliono bene. È un po' un'ipocrisia anche secondo me. Sognano la sua morte attraverso stenti indicibili, non è che vogliono bene a suo... Sono assolutamente d'accordo con te su questo fatto, però nessuno ha il coraggio di andare e di dire... Allora, visto che avete nobili tradizioni in famiglia, a un certo punto le palle non sono solo quelle che stanno nello stemma, ma dovete tirarle fuori. Due sono le cose. O fate un gesto nobile e ve ne fregate, lasciate morire sto poveraccio affogato nel suo oro, o andate a lui e gli dite scusa, caccia fuori gli anellini di famiglia perché... devo essere io, devono essere i fratelli che fanno questa cosa. Lo so, tu hai ragione. E se non lo fanno, evidentemente... Non aspetta a me rompere questi equilibri che loro vogliono tenere. Ma sai, sono equilibri fittizi, sono finti, sull'ipocrisia sì, sono equilibri. D'accordissimo, però non aspetta sempre a me. Sì, la ma cosa. Sai, io la putrefazione alla fine viene in superficie, tu puoi nascondere il cadavere quanto vuoi. Io penso che finché ci saranno questi equilibri che loro sono in vita... penso però dal momento sì, ma quando muoiono è più difficile, magari il parente con loro già l'ha dato anche lui in badanti ucraine o in viaggi nel mondo. Tiziana, no. Dai, Tiziana, buongiorno. Ciao, grazie, buongiorno. Di aver risposto all'appello, vai, 30 secondi. Vado veloce. Io ho un fratello, abbiamo ereditato insieme dal padre morto all'estero una, tra le altre cose, un appartamento più o meno, fa conto, valore 300.000 e alcune proprietà in Italia valore 30.000, 40.000. Negli anni questo fratello mi ha talmente rotto le balle, devo dire, sul fatto, non ha mai pagato le spese di queste case, mi ha chiesto soldi in continuazione per quella casa là che io manco so dov'è perché non ci andrò mai, e quindi che eccetera. Hai fatto col fratello? Morale, ho fatto fare da un notaio a mie spese un atto, ci ho messo un anno perché quell'appartamento fosse intestato tutto a lui e le proprietà in Italia a me, contro il parere della mia famiglia, perché ovviamente anche il notaio mi disse: signora, ma lei è sicura? Sicurissima. Ora sono felice. Quanto vivi bene adesso, Tiziana, che hai tolto questo peso? Quanto vivi bene adesso? Quanto vivi bene? Vivo benissimo. È stato un incubo. Quindi, Tiziana, il messaggio finale che ci arriva proprio da te, che ho lungamente implorato come rappresentante di un punto di vista che non mi appartiene, perché è quello di una donna che vede diversamente da un uomo. Probabilmente è molto meglio rinunciare. Rinunciate, vivete bene, allontanate le malattie, l'angoscia, e gli altri si godranno e si strozzeranno quello per cui hanno impostato tutto l'odio e tutta la cattiveria della loro vita. Ci fermiamo, va, alla prossima.